Roma Trastevere, 4 marzo 1970. Caro Eleuterio, la finestra sui tetti che mi ospitò ragazza e speranzosa per seguire il volo delle rondini, oggi mi accoglie donna e amareggiata mentre mischio la mia malinconia a quella del cielo grigio. Nel vicolo un bambino gioca con una bicicletta a motore e io penso che la bicicletta a motore non è che una motocicletta settimina. E penso anche che sei un perfetto cretino se scateni una tragedia per una più immediata prontezza di riflessi da parte mia, sempre tua. Roma Parioli, 5 marzo 1970. Cara sempre mia, la finestra che ti ospitò ragazza speranzosa e che oggi ti ospita donna e amareggiata per lasciarti mischiare la tua malinconia a quella del cielo dovrebbe, secondo me, non impedirti tramite davanzale di fare di me il vedovo ufficiale di una paracadutista sfortunata. La tua più immediata prontezza di riflessi mi ha procurato abrasioni e ustioni di secondo grado sul cranio e sulle gote. È una verità scottante che non riesco a dimenticare. Ciao. Ho scritto. Ieri per la strada ho visto tua madre passare indifferente davanti a un rullo compressore, senza neppure salutarlo. Che fa? Rinnega gli antenati adesso? Eleuterio. Roma Trastevere, 6 marzo 1970. Caro Eleuterio, gatto, ti prego notare che gatto l'ho scritto senza nessuna partecipazione, né in bene né in male, con indifferenza. Come quando passa un gatto e uno dice, to, un gatto, anzi, senza il to, che segno di interesse. Ho accompagnato mammina a fare la spesa. Al macellaio mammina ha chiesto 7 etti di bracciole di Eleuterio. E il macellaio, senza un attimo di perplessità, ha tagliato le bracciole dal maiale. Pensi che abbiano parlato di te qualche volta? Poi abbiamo comprato anche 2 ananas. E io penso che l'ananas, in fondo, è una pigna straniera che si pettina come Little Tony. Mi dispiace che la mia prontezza di riflessi ti abbia procurato qualche ustione. Qualche dà sempre un senso di pochezza rispetto a molte, sempre tua. Roma Parioli, 7 marzo 1970. Inesauribile sempre mia. La solitudine comincia a pesarmi. Quando si è abituati alle emozioni violente, voglio dire, vederti in bigodini e vestaglia, guardarti dormire, sentire quel rantolo agghiacciante che tu chiami canto e che metti ogni sera nel fare la doccia. Quando si è abituati alle emozioni violente, non se ne può più fare a meno. È colpa mia se sono un kamikaze. Torna. Anche perché qui avvengono strane sparizioni. Sono scomparsi il mio ombrello, la radio a transistor, quella grande, 6 grucce dell'armadio e i miei stivaloni da caccia. Come mai? Ciao. Ho scritto. La portinaia ha ritrovato le cose che mancavano. Erano tutte nel nostro letto, dalla parte tua. Come mai? Eleuterio. Roma Parioli, 8 marzo 1970. Caro Eleuterio, migione, eccomi di nuovo nella nostra bella casa che ancora non è proprio bella come quando ci sono io che la tengo bella, ma presto sarà di nuovo bella perché ci sono di nuovo io. Dalla finestra vedo il grande cartello che reclamizza la medicina contro la calvizie. Io penso che i calvi sono soltanto capelloni che praticano il naturismo. Penso anche al ridicolo perché della nostra ultima lite. Era l'ora di colazione e tu sei arrivato. Sei tu Eleuterio? Sì, sono Eleuterio. Lo sono da 45 anni. E lo sarò, spero, ancora per molto tempo. Hai qualche cosa in contrario? Ho fame. Si mangia? si mangia capone. Senti che roba. Ma perché quando fai verniciare le porte poi non dai aria alla casa? Non senti che odore? Eleuterio, l'odore che senti è quello delle lasagne verdi. Beh, è lo stesso. Quando fai verniciare di verde le lasagne, poi apri le finestre. Insomma, è pronto? Ecco, serviti pure. Beh, da quando in qua si comincia un pranzo con la torta al cioccolato. Non è torta al cioccolato, è Eleuterio. Ah no, allora è torta al caffè. È uno sformato di lasagne verdi. Verdi? Ma scusa, il verde non è quel colorito che generalmente differenzia tua madre da qualunque altra donna? Eleuterio, lascia stare mammina, so perfettamente qual è il verde. Allora queste lasagne, ammesso che lasagne siano, stanno fra il tec, l'ebano e la brioche. E io dovrei mangiare questa faccenda. Questa faccenda, come dici tu, si chiama sformato famiglia. La ricetta me l'ha data mammina. Dicendo mammina, ti riferisci a quel signore che abita con tuo padre e che ha l'hobby di vestirsi da donna? Eleuterio, smettila con mammina. La smetto, ma secondo te sono forse daltonico? No, almeno... E se non sono daltonico, questa roba che tu chiami sformato famiglia a base di lasagne verdi, io la posso giustamente definire di colore marrone scuro. Beh, sì, forse sì. E perché il verde è diventato marrone scuro? Beh, perché il forno a lungo andare abbrustolisce, Eleuterio. A lungo andare? Sì, Eleuterio. Insomma, il fatto è che non potevo essere vicino al forno se ero al telefono con Lucia. Bisognava che lei sorvegliasse la cottura in qualche modo. Lei chi? Mammina, e sai, mentre sorvegliavamo insieme la cottura, ci siamo distratte e... Però dice che per te va bene lo stesso. E per te va bene? Beh, sì, insomma. In fondo a guardarlo attentamente non è un brutto punto di marrone. Sì, è vero. Non è affatto male come colore, è vero? Sono contento. Tu avevi sempre desiderato un cappellino marrone o mi sbaglio? No. Oh no, fermo, Eleuterio, no, posa quello sformato. Sto tentando di posarlo. Ti prego, Eleuterio. Ma dove dico io? Ah sì, tieni. Scotta. Sei un bruto e io torno da mia madre. Ricordo tutto perfettamente, ma quando tornerai farò finta di niente. Ciao, si mangia? Sì, Eleuterio, ti ho preparato un delizioso sformato di lasagne verdi. Thank you.